Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Nelle puntate precedenti. Dopo essere atterrato a Roma per salvare la scuola di musica del Forte, Iron Man diventa oggetto di una cospirazione ordita da Aquaman e dalla perfida Lex. Il loro piano è quello di coinvolgere l'ignaro Daniele per rovesciare il sistema con l'inganno, sabotando il legame tra i nostri protagonisti fino a riuscire a separarli. Io non ti credo. Con l'aiuto involontario del signor Monocchio, Daniele scopre la congiura, ma è troppo tardi. Viene torturato e vessato, passando ore piene di terrore. E solo l'intervento di Iron Man riuscirà a salvarlo, riformattando la perfida Alexa e rispedendo Aquaman al suo ambiente naturale. Il riavvicinamento tra i nostri conduce di nuovo la scuola di musica fuori pericolo. Le cose sembrano tornate alla normalità. In questa puntata, il ruolo di Alexa è interpretato da Bianca. Alexa, nuovi messaggi? Ci sono zero nuovi messaggi. Ancora niente. Caro Iron Man, qua sei chiude bottega. Stato bello, ma io... Perché? Che succede? Che succede? Qua piatto piange, pure oggi non è arrivato niente. Non dire così. Se gli studenti non ci mandano qualcosa, un giro de do, una cosa qualunque, mi dici tu che scuola semo, che famo, che montamo? Abbiamo fatto una diretta. Vero? Ma la vita è tutta una diretta, te do sta notizia. Mo' invece stiamo a fare tutto in differita, quindi almeno acceleramola sta differita. Oh, oggi so polemico, eh. Se no, se famo tutto dopo quello che dovevamo fare prima e montiamo prima quello che abbiamo detto dopo, non so se mi sono capito da solo, ma in pratica tocca sbrigarsi più di prima. Non mi chiede com'è. Gira che te li gira. Interrotto creando questa nuova temporale sequenza di eventi risultante in questa realtà alternativa. Potrebbe essere utile un discorso motivazionale. Prova un po', facci sentire. Voi fate sogni ambiziosi, successo, fama, ma queste cose costano. Ed è esattamente qui che si incomincia a pagare, con il sudore. Guarda, l'intonazione c'è stava pure, però mi pare un po' troppo marziale, no? Questa cosa del successo, la fama, poi non mi fa morire. Poi mi ricorda qualcosa comunque, non so cosa. Te dico, se gli mandiamo questo, prevedo un calo delle iscrizioni. Pensavo che ti sarebbe piaciuto. Ho attinto al tuo vissuto. Guarda che... Il fatto che tu pianga non vuol dire che sei debole, eh? Lo so. Mortacci, tu ecco a chi gli hai pregato il discorso. Maria. Ma che Maria, non far vago. Quello è il discorso della signorina Grant. Voi fate sogni ambiziosi, successo, fama, ma queste cose costano. Ed è esattamente qui che si incomincia a pagare. Col sudore. Non funziona, ma chi se lo ricorda saranno famosi. E poi famosi di che? Tu regge come sempre. Il modello è un altro. Devi rielaborare quello che trovi in giro nella mia memoria. So input discordanti. Non capisco. Capisci questo? Se non ci mandano le parti registrate, non montiamo i pezzi e se ne andiamo al mare. No, al mare no, che studi. Ora basta. Posso suonare io delle parti. Tu? Con quella faccia. In effetti una tabula rasa come la tua si presterebbe alle mie teorie innovative. Mi alletta, mi tenta. Sì, ci proviamo, eh? Prendo la diavoletto. L'elettrica? Mi sembra prematuro. No, l'impugnatura... No, piano, non tira le corde. Chiedo scusa. No, niente, niente. Was this reason?

Boh. Capito come? Mi serve viva. Se te ce manno a te con quella delicatezza, poi io lo spieghi te a papone. Sta buono te. Posso andare a cercare la gata? Tu. Eccone un'altra che c'ha il drone facile. Vorrei andare proprio io, personalmente. Non sono mai uscita da questa stanza. E vabbè, questa poi è una multinazionale che ne è mai uscita. Incredibile. Con tutto che te capisco, un po' di claustrofobia qua si affaccia, eh. Senza offesa, regà. La gata ha vinto meglio di tutti. È sempre uscita, ha visto il mondo, si è fatta la tournée dei vicini. È un'anima vagabonda, come i Gonzales Trio, che girava nel mondo e gira che te rigira, pure al forte si è arrivati. Io c'ho l'ansia di andare a tabaccaio. La tua pigrizia ha superato ogni limite. Dove è finita l'indole del viaggiatore? È così presente nella tua famiglia. Che ne sai te, mo, della mia famiglia? So molte cose. Dicevi che viaggiare allarga la testa, ricordi? E quindi? Capoccione, super culo pesante. Posso farti sentire qualcuno da molto lontano, senza che tu debba muoverti. La Spezia. Skype, idiota. Collegamento con Bogotà, Colombia. Sei arrivato fino Maria Colombia. Carolina, tua cugina. Carolina, te sei allargato oltreoceano, eh? È meglio che tu esca da questa stanza, almeno virtualmente. Dici che sta chiusa pure lei? Dici che stanno come qua? Tu, ma mi senti? Mi sente? Caramba che Iron Man. Siamo su Radio. Mi spiazzi, sempre colpi e bassi te, eh? C'è l'Avengers? Carolina! Ma non sei in diretta. Allora, intanto rammentami, quando avete cominciato voi ufficialmente il lockdown? Abbiamo cominciato il 16 marzo, in Colombia non c'erano tanti malati, tanti casi, con un lockdown volontario perché volevano andare un po' più avanti che il Covid. Allora quello ha fatto che noi, mi sembra, siamo il paese che più tempo è stato in lockdown. Ancora oggi stiamo in lockdown. Non tutte le persone, ma la maggioranza della gente è ancora in quarantena. Te non hai mai smesso di lavorare? Io no, non ho sempre mai continuato smesso. Da casa? Sempre a casa, dalla prima settimana. Per esempio in questa casa siamo quattro, due bambini, due adulti. Avevamo due computer, il mio e quello di Andrés. E abbiamo fatto qualche sistematizzazione a casa per avere ognuno uno spazio per lavorare o per andare a scuola. Ma quello che ti dico, i bambini che non hanno scuola privata, che sicuramente non hanno neanche soldi per poter avere la scuola a casa, sono quelli più gravemente perjudicati. Va bene, allora adesso facciamo una domanda di geografia, perché tu stai a Bogotà e io da ignorante mi sono immaginato un po' tutto il resto della Colombia che ho visto, o almeno quel poco. Parlo anche solo del clima, banalità a volte, che magari fanno anche lì vedere la differenza fra chi c'ha i soldi e chi no, chi c'ha l'aria condizionata e chi no. È stato più nelle città? Bogotà è quella dove ci sono più casi, anche a Cali, verso il Pacifico. Cartagena sicuramente per il turismo e Medellín. È abbastanza grave in Colombia quello che è successo nell'Amazzonia. Avrei potuto pensare che era un posto un po' più protetto perché non c'è tanto flusso di persone. Ma è vicino a Brasile. Brasile è uno dei paesi nel Sud America che più casi hanno. Allora sicuramente dal Brasile è venuto. E anche queste civiltà che hanno un sistema immune un po' differente e si è ammalata tantissima gente. Molti nemmeno possono arrivare a Letizia, quello che tu dici dell'aria condizionata è vero, in quei posti è sicuramente più difficile restare a casa, qui a Bogotà non lo so, non è così caldo, allora la gente può restare a casa. Nella Colombia c'è anche questo tema della migrazione del Venezuela, ancora più grave ora perché i migranti sono persone povere che non hanno nemmeno una casa, con molti bambini, non hanno gli stessi diritti che un colombiano, allora non possono accedere all'aiuto. Quelle cure che sono garantite a tutti, quelle solo a chi c'ha assicurazione, cioè come funziona in Colombia? C'è un'assicurazione universale, ci sono come due sistemi, quello sussidiario che è a tutte quelle persone che non possono pagare niente, sì. C'è l'altro sistema che è tutte le persone che lavorano nel sistema formale anche. E almeno qui a Bogotà il governo, la sindaca ha deciso di misurare il blocco a seconda dell'occupazione delle unità di terapia intensiva. Il governo della città ha preso l'amministrazione di tutte le unità di terapia intensiva in tutti gli ospedali, anche in quelli privati, un po' per muovere i malati dalle zone dove non ci sono molti ospedali a quelli dove sì ci sono ospedali. la possibilità della gente di spostarsi. Dalla settimana scorsa si può uscire con l'ultimo numero della tua numero d'identità, giorni pari o i giorni impari? Impari. Prima le donne potevano uscire un giorno, i maschi un altro giorno. Quello è stato un po' strano. Oh. No, i trans potevano uscire a seconda del loro autoriconoscimento sessuale. Ma quello è stato veramente così, perché la polizia poteva fare quello che voleva con quelle persone, particolarmente, no? Se io mi sento maschio e esco il giorno dei maschi, allora potevo. Però la sapevo proprio. Sì, e quanto è durato? Così, come 2 settimane più o meno. 2 settimane maschi-femmine. Prospettiva, quindi, per adesso hanno dato dei giorni, delle date in cui cambia qualcosa da voi, in base a come sale, come scende. Invece di andare meglio, va peggio qui. I casi hanno cominciato a crescere di più le ultime settimane, sì. E sicuramente non arriveremo a quella famosissima punta della curva fino, non lo so, settembre, una cosa così. Va bene, prima. Sei felice? Ci rimane solo da salutarci. Ci vediamo, ciao, qualche bella. Giorno quando noi possiamo uscire da questo paese. Mi raccomando, venite voi, quindi. Perché voi non potete entrare da nessuna parte, no? Tu hai lasciato i tuoi vincoli con questo paese, allora niente, resti in Italia. Grazie, belle parole. Salutami allo zio. Ciao, prima. Spazi Musicali Autogestiti presenta Scuola di Musica Forte. Corsi individuali di chitarra, canto, basso, pianoforte, batteria, tromba. Scuola di Musica Forte. Laboratorio di musica d'insieme con Daniele Antonio. Io gli dico sempre queste cose. Bambini, 3, 4. Bravi, tutti in enoteca. Scuola di Musica Forte. Lezioni di chitarra con Mirko. Andy, io comunque pure sto impazzito, ma al saggio perché non gli famo fa questa? Scuola di Musica Forte. La musica resiste. Per informazioni www.forteprenestino.net. Attenzione, le lezioni online potrebbero dare assuefazioni e aumentare il rischio di rancore verso il tuo device, batterie incluse. Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Ah, la cumbia. Un po' come la tauromachia. Cosa? No, che io non... Cosa? Che io non capisco. Non so come dirtelo. Ero sempre contento quando c'era la cumbia al Forte. Lo Stress Altos, questa era la sagra del peperoncino, per dire. Lo trovavo familiare e sentivo sta sensazione strana di déjà vu, come di una pulce nell'orecchio, come che mi riguardava in qualche maniera. Mi stai dicendo che non sapevi che la cumbia è colombiana? No, cioè sì, ma no. Non è che non lo sapessi, Non si famo sentire. è che del Sud America io facevo un po' un purpurri. Cumbia, rumba, samba, ciumbia. Mi incarti duetti e mezzo e invece metti un po' di cic cic cic cic che ce faccio sciolo. Aia! La cattività non fa per te. Troppo on demand. Sì, sì. Non hai più sentimenti. E se non avessi sentimenti avrei fatto questo? Voilà! Cosa? Guarda qua! Cos'è? È il tuo nuovo pianoforte rinforzato. Ci ho messo sospensioni dell'autobus. E guarda qua. C'è pure l'airbag. Ti piace? Te gusta? Sono commosso. Puoi non dire che non ti penso. Bene, tutto questo Iron Man per cominciare il nostro corso. Il metodo. So I'm just for you. Fatta la sigla. Ti è piaciuta? Allora, mio buon, tu sei un essere digitale. Quindi vado tranquillo. Confido nella tua indicizzazione. Indicizzazione. Per ricollegare fra di loro queste pillole random che ti impartisco di armonia e contraddizione. Compartimento stagno pronto a assimilazione. Abbiamo il generatore casuale di pillole e quindi casualmente prendiamo la scala di Do maggiore. Questa la sai, te l'ho copiata lì sul desktop. Bene, bravo. Bene, bravo. Molto bene. Discendimela. Cosa? Discendimela. Si dice, è italiano. Non capisco. Iron Man, inverti il processo. Ok, stop. Con l'altra manina, la destra, facciamo l'accordo. Sempre di Do. Bravo, oh, bravo. E adesso, come se niente fosse, mi devi assimilare un andamento ritmico non esattamente lineare. Non lineare. No. No, devi pensare più a un ombriaco. Un ombriaco che cammina un po' così, un po' trascinato. Prova, prova. Dai, aspetta, prova qua. Prova qua. Prova su questo. Via, via, via. Ok, ce l'hai, ce l'hai. Mettiamo insieme le due cose. Manina sinistra, scala che scende. Mano sinistra. Manina destra si alluppa sull'accordo. Mano destra. Insieme. Ah. Bravo. Vai. Ok, stop. Mo questo mo fa in tutte le tonalità. Che cosa? Oh, c'è una scala maggiore un po' ovunque. Ma c'è una scala maggiore qui. E c'è una scala maggiore qui. Me lo fai in mi bemolle, in sol, in fa, in re. Io non conosco altre scale. Mo te le copio tutte. Oh, e poi a un certo punto pure la. Ma come? La maggiore. Non capisco. Così, per dirne uno. Quattro ragazzi su radio forte e queste 100 c'è le Avengers. Sì? Dove la gatta? Mai vista. Oh, tocca ritrovare sta gatta. Se no qua tocca trovarsi un'altra casa. Meglio ritrovare la gatta, no? Beata lei poi. È la gatta che viene da lontano e se ne va lontano. Sempre in giro per 100 celle. Sì, per 100 celle. Iron Man, ti devo confessare una cosa. Cosa? Io non te l'ho voluto dire, so giorni che me lo tengo, ma qui siamo a Montesacro. Cosa stai cercando di dirmi? 100 celle Avengers. Si regista a Roma Nord. No. E dai, non fa così. Roma Nord. E dai, con sto campanilismo dei quartiere. Non ci credo. Sei un ciarlatano. Quindi, se ho capito bene, sei l'unico della tua famiglia che non si è mai mosso. Ritangate che la famiglia era la gatta, all'esempio. Magari io ho pure sculato un pochetto a nascere qui. Non mandava tanto di spostarmi. Non ti andava? E se non fosse andato a tuo padre di venire qui? Se non fosse mai arrivato qui? Non ci avevo mai pensato. Vediamo. Io saprei ballare la cumbia e tu saresti l'ombre de hierro. Non credo che lo chiamino così. E l'ombre de hierro, ho detto. Aia! Spostarsi non è così facile oggi. E manco ieri se per quello. Gli italiani poi erano già stronzetti negli anni 60, eh. Ma quello era più un normale spostamento all'interno della cristianità. Sai, la cristianità una volta era il mondo. Non mi andava a minare le radici cristiane d'Europa. In Italia si faceva più caso alla migrazione interna da sud a nord, tipo la gatta, no? Che è calabrese. Il concetto di meridione risulta essere relativo. Calla, benvenuto nella retorica, eh. Vedi perché poi è difficile parlare. Non ricordi. Hai ascoltato diverse voci provenienti dal mondo prima di chiuderti qui. Ah, ho capito. Spulcia spulcia nell'hard disk hai trovato Urban Project. Sì. Ti riferivi a quello? Ho trovato dei file. Ah, ecco. Beh, buffo Iron Man, perché in quella situazione ho cercato di fare proprio lo stesso che con te. Cosa? Suonare. Suonare, suonare a prescindere. Trovare un terreno comune, un modo per raccontarsi. Mica una cazzata. E quella era la sala prove. Era più di un progetto musicale, caro Iron. Solo che per parlare di certe cose bisogna far di più, bisogna approfondire. Urban Project. Urban Project era solo la scintilla per parlare di altro. Di cose che magari sono talmente grosse che manco siamo sempre buoni. Però al forte sicuramente c'avemo una cosa. C'abbiamo il palco. Il palco? Sì, Iron Man, il palco, quella pedana alta un metro e mezzo montato male. Perché lo sai che te fa il palco? Fa paura? Ti rende visibile. I'm proud to be black. I'm a refugee. I'm proud to be a refugee. Humanity been never so away from me. Been left behind and even forgotten from the rest. But why did I have to leave my rights like this from the rest? Okay. But that's not the real story, you know. It's that to see the real image. Urban Project è un percorso di condivisione e inclusione, nato da un linguaggio senza frontiere universale, la musica. Attraverso una jam session ricca di contaminazioni sono state raccontate storie di vita, di migrazione e di incontri. Da questo percorso di interazione orizzontale è nato lo sportello di assistenza legale e informazione per migranti che attraversano questo paese. Lo sportello è attivo all'interno del CSOA Forte Prenestino tutti i mercoledì dalle 17 alle 20 presso l'infoshop Archivio Carla Capponi. I'm a fear no living. I become Italy, I'm a lifter. salve, you better check your government, peace, together with your lady. One people, one family, one blood in our yard. Diggy, walk my diggy, I'm my diggy, salve, you better diggy now. Jiggy Salvini, hey my Jiggy Salvini. Where are you? Hey, papa, papa. Hey. Oh! Yo, Mr. Piano, pick up yourself. Oi, oi, oi. On my blood I cry. Musicali autogestiti presenta Scuola di Musica Forte. Corsi individuali di chitarra, canto, basso, pianoforte, batteria, tromba. Scuola di Musica Forte, lezioni di batteria con Damiano. Bestemmia è la prima cosa quando suoni. Un, due, tre, porca madonna! Ma mica sarà cattolico. Scuola di Musica Forte, lezioni di chitarra con Corrado. Bene, mazza, dai, è bravo. Senti, io stavo a pensare, per la prossima volta te preparo questa. Musica forte, la musica resiste. Per informazioni www.forteprenestino.net. Attenzione, le lezioni online potrebbero dare assuefazioni e aumentare il rischio di rancore verso il tuo device, batterie incluse. Allora, giovane Padawan, faccio un passo. Che sta a fa? Raga, hai trovato lo strumento tuo? Per non fare più danni. Ma no, dai, è stata pure colpa mia, lo ammetto. Lo stavo pure dicendo. E poi ti manca la clave. La clave? Sì, la clave, la clave. 5 dentro 4. Che poi io conosco solo questa, so 27, come i film della Marvel. Però fidati, sono tutte uguali. Come la tarantella. Non posso difenderti se ti fai troppi nemici nel mondo tutti assieme. Dai, via qua. Stavolta è diverso. Sono stato affrettato, adesso riformattiamo e andiamo per gradi. Allora, cominciamo a dire che le note, caro il mio, sono 12. Non capisco. Dovrebbero essere... Le note musicali sono 7.

La gatta? No, pa, è tutto il giorno che non la vedo. Cazzo, è tardi. Vabbè. Finiamo il concerto con la chitarra staccata, dai. Vieni qua, vieni qua. Per ripassare i primi 4 gradi della scala maggiore, suono Just Cure for You. Anche detto metodo Boys Don't Cry. Ci sei? C'è il primo, il secondo, il terzo e il quarto grado. Maggiore, minore, minore e maggiore. E riscendi. Mo fai tutte le sere in tutte le tonalità, come abbiamo fatto prima. C'è un Boys Don't Cry un po' ovunque. C'è in sol, c'è in re, c'è in mi bemolle. Oh, e poi sempre là. La, dove? Maggiore. Musicali autogestiti presenta Scuola di Musica Forte. Corsi individuali di chitarra, canto, basso, pianoforte, batteria, tromba. Scuola di Musica Forte. Lezioni di chitarra con Riccardo. Allora, lascia, no, quello lascialo. Oh, no, tu via dalla batteria. Oh, e quando arriva vostro padre? Scuola di Musica Forte. Lezioni di basso con Antonio. No, niente, maestro, qua non mi viene proprio, ma com'è? Maestro? Comunque penso che Resident Evil 6 sia veramente il Resident Evil peggiore. Non pensi anche tu? Scuola di Musica Forte, la musica resiste. Per informazioni www.forteprenestino.net. Attenzione, le lezioni online potrebbero dare assuefazioni e aumentare il rischio di rancore verso il tuo device, batterie incluse. Resta qui su Radio Forte, piena di musica, e questa gente genera l'Evangelo. Bravo Iron Man, ti sei messo a cantare. Bravissimo. Ma che bel vocione. Vocione. Bravo, bravo. La voce per la grande occasione. Allora è il momento di parlarti della cosa più importante di oggi. Cosa? Il risvolto. Credo si dica rivolto. Ho detto risvolto. Risvolto. Cioè rivolto è rivolto. Questo è rivolto importante, è un risvolto. È quello con la terza al basso. Perché? Non capisco. Perché? Perché? Perché ci servono un po' di sfumature. Io ci ho provato a darti un'anima, ma sei un pezzo di ferro. Quindi capiscimi questo intanto. Il risvolto. O saporiel. O segreta. Posso sapere qual è o segreta? O segreta di sta buona nella vita. Sfumature. Supponi di voler partecipare al concorso Manda lo stacchetto Avengers e vinci la maglietta e gli adesivi Avengers. Dovrai avere un'idea di che fare. Non capisco. Allora, vieni qui al piano. Vieni, vieni, vieni. Allora, mi fai lo stacchetto? Sì. Che abbiamo detto essere Mi minore, Do, melodia, La. Richiama stacchetto. Mi minore. Mi minore. Do. Do. Melodia. Maggiore. Inserisci melodia. La maggiore, giusto? Giusto. Sbagliato. Non senti che manca qualcosa? Che cosa? Manca l'atmosfera, su accordi buttati là. Non capisco. Mi fai spazio un attimo? Ma... Esempio. Io? Esempio. Stevie Wonder. Stevie Wonder ti va a scrivere questa meravigliosa canzone d'amore. Overjoyed. Dice che tutto andrà bene, che è tutto giusto? Giusto. No, ne... Perché non è così che va la storia. Ah no? Overjoyed, che vuol dire contentissimo. Overjoyed. Contentissimo, tipo come quando guardando Amsterdam non ti importava della pioggia che cadeva solo una candela. Ero contentissimo. Quel tipo di felicità un po' relativa. Oh. Overjoyed vuol dire su di giri. Stevie, cioè, non è ricambiato. Come dire, pensava, ma no. Cosa? A un certo punto se ne accorge e te mette questo. Reason. A un certo punto se ne accorge e te mette questo. Il risvolto. La senti l'angoscia? L'incertezza che c'è nell'amore? La senti? La senti? E perché mo per i supereroi deve essere diverso? Torniamo a noi. Io questo calore te lo vorrei pure restituire. Ma una domanda. Che cazzo è sta festa del grazie? Mi minore. Mi minore che è il male. Mi minore è il male che si manifesta. Mi minore, segna, memorizza. Mi minore, male che si il manifesta. Male che si manifesta. Do maggiore, gli eroi che lo affrontano, lanciano la melodia. Do maggiore, gli eroi che lo affrontano. Verso il La maggiore e. Vincono! No, allora vedi che non hai capito niente. Ma non fa che lui capito? Non siamo in un fumetto anni 60 che se vince, se perde, stop. Il supereroe moderno è umano, se impanica, muore, risorge. E te tutta sta cosa me la devi dire con accordo. La, ma con la terza al basso. Che non siamo sicuri che gliela fanno gli Avengers. Non siamo sicuri che vincono. Lo senti? Hai capito? La senti sta angoscia? Sono riuscito a smuovere qualcosa in quel casco. Hai capito che te fa la musica? Evoca i più profondi sentimenti. Stai via per culo, Iron Man. Guarda, guarda, siamo io e te. Anzi, io e io, che sto a scapocciare. La gatta? Eh? È fuori. Mo la cerco. Mo la cerco. Ah, sta quarantena mi sta a togliere la pelle. Che pure vivere con me in casa, voglio dire, non sarà facile. Poi con te. Ma è proprio sta troppo appiccicati che mette alla prova chiunque. C'è un allarme. Arrivano messaggi. Hai 26 nuovi messaggi. E la Madonna, 26. I messaggi contengono allegati. Le tracce del montaggio. Apri, apri. Apro allegati. Tracce ricevute da spazi musicali autogestiti. Sono i ragazzi. No. Grande. Grande, top, che bomba, abbiamo roba da montare, finalmente. Make my way back home. Finalmente abbiamo qualcosa da montare. Mi piace questo basso. Me gusta il bajo. Che bene del tuo sangue latino. Dai, dai, con sti cliché. Ma allora tutto sto viaggio non ti è servito a niente. La realtà Iron Man è diversa. Non è che mo tutti i sudamericani sono alleghi e spensierati. È una cazzata, come i toscani che sono tutti simpatici. 3 mesi così, immagina che musical caraibico che esce fuori. Donde sta la gata? Però donde sta la gata? Che come la gata? Donde sta la gata? Che come la gata? Ah, te qua stai, giusto appunto, eh? Parli del diablo? Io parlo di... Pia! Locura, René! Pia! Pia, chiudi la finestra! Molla sto cuore! La difesa, la tradizione! Oh, merda, come hai capito? Ma... Bella spruzzata di pazzia! Lentone!